dissipate e disperse nell'aspro odore della cordite. Genova non sa ancora niente, lenta agonizza fuoco e rumore, ma come quella vita giovane spenta Genova muore. Per quanti giorni l'odio colpirà ancora a mani piene, Genova risponde al porto con l'urlo alto delle sirene. Poi tutto ricomincia come ogni giorno, e chi ha la ragione? Dico nobili uomini, danno implacabili giustificazione. Come ci fosse un modo, uno soltanto per riportare una vita troncata, tutta una vita da immaginare. Genova non ha scordato, perché è difficile dimenticare. C'è traffico, mare, accento, danzante, vicoli da camminare. La lanterna impassibile guarda da secoli gli scogli e l'onda. Ritorna come sempre, quasi normale, piazza Alimonda. La salvia splendens lucida, copre un'aiuola triangolare. Viaggia il traffico solito, scorrendo rapido e regolare. Dal bar Caffè Grappini, perde un'edicola, vende la vita. Resta amare indelebile, resta mare indelebile, resta mare indelebile, la traccia aperta di una ferita.